Benvenuti da Elisa e Silvia nella nostra nuova rubrica di Radio Esercito dedicata alla rivista militare. Storia, tecnologia, innovazione e società sono solo alcune delle tematiche che colorano il sommario di questo bimestrale al quale abbiamo scelto di dar voce ogni giovedì alle 11.30. Oggi ci troviamo con il capo della redazione di Rivista Militare, il tenente colonnello Pier Francesco Sampaolo, per parlare di musica. Di quella musica che ha fatto la storia e che ha meglio descritto uno di quei periodi che hanno ispirato libri e pellicole cinematografiche in tutto il pianeta. Se c'è una band che nel secolo scorso ha meglio rappresentato la colonna sonora della guerra in Vietnam e tutto il contesto di tumulti di riverbero sociale che ne è derivato, questi sono i Creedence Clearwater Revival. Partiamo proprio dal titolo del suo articolo, Who'll Stop the Rain? Chi fermerà la pioggia? È un brano che dipinge la guerra come una pioggia incessante che nessuno riesce a fermare. Questa, come tante altre canzoni di John Fogerty, il frontman del gruppo, ha fatto da colonna sonora a molti soldati al fronte. Perché ha scelto di partire proprio da questa canzone? Ma innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato qui e grazie anche a nome di tutta la redazione di Rivista Militare. Who'll Stop the Rain è uno forse dei brani più rappresentativi dei Creedence Clearwater Revival in generale, uno perché ha dato anche nome ad un film celeberrimo di Karel Rice, se non ricordo male, e poi perché ha fatto un po', diciamo, da leitmotiv a tutte le contestazioni, eccetera. È stato addirittura ripreso da Bruce Springsteen nel 2003 all'apertura del suo tour mondiale, e in più è un aneddoto simpatico perché in realtà questa canzone fu scritta proprio da Fogerty appena dopo il concerto di Woodstock nel 69, dove i Creedence tra l'altro furono la prima band convocata. E come sappiamo, a Woodstock piove praticamente quasi tutti e tre i giorni e sono famosissime le foto dove la gente si butta nel fango e, eccetera, e quindi in realtà però la storia, subito dopo lui scrisse questa canzone, dicevo appunto subito dopo il concerto, era perché c'era questo giorno di pioggia incredibile e lui aveva un figlio appunto che si chiama Josh, e praticamente questo figlio, guardando fuori dalla finestra, aveva 4 anni, diceva insomma: babbo, ma questa pioggia quando è che smette di piovere? E allora lui decise di usare il titolo in base appunto alla domanda che gli aveva fatto il figlio. Chiaramente il riferimento a Woodstock è importantissimo perché Woodstock è stato un concerto epico e che era chiaramente tutto riferito sulla pace, sulla diciamo la contestazione a quelli che erano i mali del mondo e le guerre in particolare la guerra del Vietnam. Quindi Chi fermerà la pioggia mi è sembrato insomma il titolo più rappresentativo di questo grandissimo artista. Ecco Woodstock e la pace, però parliamo dell'esperienza militare proprio di Fogerty, che diciamolo, ha sicuramente avuto un impatto veramente interessante, anche importante, sui componimenti del gruppo. Quale fu questa sua parentesi in divisa? In realtà Fogerty, come tantissimi altri artisti, non solo diciamo recenti ma anche nella storia, nel passato, sia che fossero musicisti o che fossero pittori o poeti, eccetera, eccetera, hanno militato o come volontari o come richiamati negli eserciti vari, nella storia, e lì ci hanno restituito delle esperienze, dei vissuti meravigliosi ancora oggi. Pensiamo a Tolstoi nella guerra di Crimea, ma moltissimi altri, Ugo Foscolo, eccetera. Fogerty in realtà lui già era un musicista di discreto successo, lui è del 45, è californiano, nel 66 decide di arruolarsi volontario nella riserva degli Stati Uniti, dell'esercito degli Stati Uniti, va prima in Virginia, poi in North Carolina e poi approda a Fort Knox nel Kentucky, e lì praticamente, che era un centro di addestramento molto grande, vede passare moltissimi giovani che si addestravano per partire poi appunto per il Vietnam. Lì sono nate moltissime canzoni e soprattutto moltissima ispirazione di Fogerty, appunto, per scrivere le canzoni dei Creedence, soprattutto perché, conoscendo tutti questi giovani che partivano, ognuno con la propria storia, ognuno con le proprie attitudini, aspirazioni o speranze, eccetera, ha visto passare quasi un'intera generazione che poi certo, andava a morire. Infatti lui dirà in un'intervista ad Eric Pilgrim sul Fort Knox News, dirà insomma, nel conoscere tutti questi ragazzi, dice, sembrava che l'orologio della vita per queste persone avesse cominciato a correre più veloce, perché molti passavano, facevano l'addestramento, arrivavano in Vietnam e dopo pochissimo morivano e non tornavano più a casa se non dentro un sacco nero. E questo ha influenzato moltissimo la scrittura di Fogerty, con canzoni come The Song for Everyone, Fortunate Son, eccetera, Have You Ever Seen the Rain, sempre per rimanere sulla pioggia, Who'll Stop the Rain, di cui parlavamo prima. E diciamo che anche insomma queste canzoni, come hanno fatto da colonna sonora di moltissimi film sul, appunto, sulla guerra del Vietnam, ma non solo, ma durante la guerra del Vietnam stessa, erano cantate e ascoltate sia dai soldati, sia dai reduci, sì, sia dalle famiglie a casa, nelle radio che erano lì e nelle radio che erano negli Stati Uniti, ma poi un po' in tutto il mondo, ecco. Poi soprattutto in questa fase particolare, no, della sua vita, Fogerty si è anche trovato a confrontarsi con altre due stelle della musica del tempo, e parliamo ovviamente, come diceva anche lei prima, nelle campate di Fort Knox la scena era già illuminata da Elvis Presley e Buddy Knox, e proprio da Knox lui aveva preso l'ispirazione, anzi secondo quanto scrive proprio nell'articolo fu proprio una folgorazione. Ecco, come andò? Esattamente così, anche perché negli anni 50, ma questo succedeva, se vi ricordate, anche in Italia, perché c'era una serie di film che si chiamavano i musicarelli, dove vedevamo, che ne so, Gianni Morandi, Albano, che facevano il militare, eccetera, e questo succedeva anche negli Stati Uniti. In realtà questo format, se lo vogliamo chiamare così, fu importato proprio da lì. Era molto semplice, molto facile vedere dei grandi artisti che addirittura in uniforme si esibivano in televisione, eccetera, e questo appunto accadde sia a Buddy Knox, che era un grandissimo musicista, che nel 57 era all'Ed Sullivan Show in televisione e a fare veramente un concerto appunto in uniforme. E Fogerty lo vide, era uno dei suoi miti, come Elvis Presley, come lo era per chiunque facesse quel tipo di musica in quel periodo, e rimase folgorato e pensò addirittura, proprio vedendolo esibirsi in divisa, che fare un'esperienza di quel tipo anche lui avrebbe fatto sicuramente il paio con le sue aspirazioni da rockstar, così come infatti poi avvenne. Quindi si può dire che fu proprio il servizio militare, diciamo, a fare da miccia per la stesura delle sue canzoni più famose? Beh, in un certo senso sì, non ne possiamo chiaramente essere certi, perché come dicevo, Fogerty già quando entra nell'esercito era un musicista insomma di una certa fama, chiaramente non il livello che raggiunse dopo, però è evidente una cosa, ma questo non vale solo per Fogerty, ma vale per tutti i grandi artisti eccetera che hanno fatto questo tipo di esperienza, che appunto l'esperienza militare, cosa che Fogerty peraltro ha riconosciuto pubblicamente in tante occasioni, l'esperienza militare comunque gli ha donato e ti dà in generale quel tipo di approccio, quel senso della disciplina, dello stare insieme, della comunità, della condivisione, che per un artista è, diciamo, una linfa importantissima, sia per l'ispirazione, cioè, da poi per le esperienze stesse che fa, perché è come se, soprattutto in periodi di grande crisi, ma non solo, l'esperienza militare ti riporta un po' ai tuoi bisogni primari, no? Asciuga tutto quello che c'è di superfluo e ti impone in qualche modo di convivere con gli altri, di seguire determinate regole e di essere disciplinato. Ora, per un artista la disciplina è una cosa importantissima, chi lo sa, chi lo fa, voglio dire, lo sa, e quel tipo di disciplina lì è molto molto molto simile a quella degli artisti. Inoltre Fogerty racconta sempre a Eric Pilgrim che, essendo che lui ha fatto appunto il militare lì a Fort Knox nel Kentucky, e il Kentucky ha un clima roente, peraltro nello stesso periodo, più o meno in quegli anni, c'era anche Jimi Hendrix che, sì, ha fatto la stessa esperienza, ma lui nella 101esima nei paracadutisti, e il caldo è assurdo, l'addestramento veniva fatto chiaramente sotto lo scoppio del sole, e quindi a un certo punto lui diceva che con queste forti insolazioni raggiungeva una dimensione quasi mistica, e addirittura l'ispirazione che gli arrivava era quasi psichedelica, un po' sinestetica, come i Pink Floyd quasi. Sì, anche se insomma Freud non hanno fatto le stesse esperienze, certo. Però è un po' quello, alla fine è un po' quello, come gli antichi greci, no? Che dicevano, che scrivevano le poesie o avevano ispirazione nei loro componimenti all'ora, alla controra, e la controra è esattamente quell'ora del pomeriggio dopo l'ora del pranzo che noi chiamiamo oggi, che va dalle 2 del pomeriggio fino alle 4, dove il sole è fortissimo ed è uno stato quasi di stordimento, eccetera. Quindi ecco, questo qui, allora, in questo come... senso sicuramente Poverty ha avuto un'esperienza, una diciamo un'ispirazione fortissima dalla sua esperienza militare. E proprio di esperienza e visione personale, con queste due parole voglio concludere questa bellissima chiacchierata. Allora, come lei stesso conclude nel suo articolo, la visione personale che diventa universale è una prerogativa dell'arte. Quindi la domanda che le vorremmo porre è questa: vale anche per il contesto sociale attuale, anche se con modalità differenti? Assolutamente sì, perché queste sono cose che hanno a che fare con le vicende umane, cioè le vicende umane, al di là del contesto storico, del periodo in cui uno vive, comunque hanno delle caratteristiche comuni, e gli artisti, sia consapevolmente sia inconsapevolmente, si trovano ad essere una sorta di filtri di fronte alle vicende umane, e le loro esperienze personali che loro vivono, o le esperienze che loro sognano, che immaginano, appunto un artista è tale perché riesce a prendere questo tipo di esperienze del mondo che ha intorno e a restituirle con una visione universale, dove tutti appunto riescono magicamente a riconoscersi, ma non a livello razionale o cerebrale, ma a livello appunto istintivo, di pancia, proprio di stomaco, vanno a toccare delle corde che rendono poi le cose appunto universali. Questo succede in qualsiasi momento, succedeva appunto, come diciamo, nella Grecia antica, come succede adesso e come è successo insomma in passato, e credo che succederà ancora sempre. Ringraziamo il tenente colonnello San Paolo per essere stato con noi ospiti ai microfoni di Radio Esercito, e ci auguriamo di riaverla qua al più presto. Grazie a voi, e mi raccomando, abbonatevi e leggete Rivista Militare. Assolutamente, grazie colonnello. Arrivederci. Arrivederci.